Allora, abbiamo concluso la scorsa volta all'inizio della pagina 13B, la prima parte della pagina del foglio 13B del nostro capitolo di Berachot, secondo, dicendo che la Halakha, secondo quanto ci è stato riportato dal Rabbah Bar Bar Hana a nome di Rabbi Yochanan, la Halakha è che, secondo due Baraitot che abbiamo visto, che la kavanah, nel senso la comprensione delle parole che si recitano, è richiesta come minimo per la prima parte dello Shema, cioè fino alle parole che si dice al Mezuzot Betecha Ubishearecha, la conclusione del primo brano. Ora vediamo che la Gemara cita un'altra fonte dicendo Tanya. Vi ricordate la parola codice Tanya cosa vuol dire? Citazione Baraita. Citazioni ed una Baraita, perfetto. Letteralmente vuol dire abbiamo studiato. Ed è un riferimento ad una baraita. Abbiamo studiato in una baraita idach, un'altra baraita. Quindi in un'altra baraita parliamo sempre di questo contesto qui, ma in una maniera diversa. Cosa c'è scritto in quest'altra baraita? Questa baraita cita la parola vehayu, che sullo Shema è scritto Vehayu HaDevarim HaEle Alevavecha, e queste parole saranno poste sul tuo cuore, giusto? Allora la parola Vehayu, che significa e saranno, da qui si deduce Shelo Yikra Lemafrea, che la persona non legga in un ordine diverso di quanto è scritto sulla Parashah, sul Sefer, sul libro di Tefilah. Questo è già l'altra volta. Abbiamo già visto, ma adesso lo Ma citiamo da... scusa, era quel punto. Lo citiamo da questa braita, Shelo Yikra Lemafrea, Vehayu, e saranno, in che senso? Che c'entra e saranno? E l'insegnamento che deduciamo di mantenere l'ordine, perché Vehayu devono rimanere così come sono. Appunto questo, come diceva Alberto, l'avevamo visto. A nome di Rabbanan, quando si discuteva tra i maestri e i Chachamim nella prima parte della Gemara dopo la Mishnah. Tra i Chachamim e Sì? Ricordi? Rabbi. Sì. Ah, tra Chachamim e Rabbi, bravo. Allora, tra i Rabbanan, i maestri dicevano che Vehayu indica appunto questa cosa qui, che bisogna usare l'ordine giusto, perché secondo Rabbi, invece, Vehayu che senso aveva? Che devono rimanere in questa lingua. Bisogna leggere le parole dello Shema in quella lingua. Vi ricordate questa discussione tra Rabbi Udanasi e i Rabbanan e gli altri Chachamim? Allora, questa Baraita non riporta quella discussione là, semplicemente riporta questa opinione qui, che se lo Ikram e l'Emafrea non legge in senso diverso, inverso o alternato rispetto a quello che è l'ordine di come sono le parole. Poi c'è scritto Alle Vaveha, si cita, giusto? Sempre stiamo parlando della Baraita, stiamo citando la Baraita. Le parole Alle Vaveha sul tuo cuore, Rav Zutra Omer, Rav Zutra, il maestro Rav Zutra nella Baraita dice: Ad kan, fino a qui, cioè fino a questo punto dello Shema, ovvero fino alla fine del primo brano, sempre stiamo parlando, mitzvat kavanah, fino a qui esiste l'obbligo, la mitzvah della kavanah, della comprensione. Kan veilach, da qui in poi, quindi da seconda parasha, vayayim shamoa, mitzvat keria. Non c'è più la mitzvah della kavana, è solamente sufficiente la mitzvah della keria, cioè, benissimo, della lettura. Ok? È necessaria la lettura, ma non è necessaria più la kavana. Non che non serve la kavana, ma se non ci fosse, comunque la Non va ripetuto. mitzvah, esattamente, non va ripetuto, la mitzvah è stata fatta. Ma qui c'è subito una discussione nella Baraita stessa. Rabbi Yoshia Omer. Rabbi Yoshia invece è dell'opinione Ad kan mitzvat keria, mikan veilach mitzvat kavana. Rabbi Yoshia dice esattamente il contrario. Quando c'è scritto Alle Vavecha, Lui dice questo, bisogna leggerlo per forza. E invece d'ora in poi è sufficiente la kavana, l'intenzione. Cos'è il senso di questa discussione? Secondo Rabbi Yoshia, nella prima parasha bisogna per forza esprimere le parole con la bocca, cioè pronunciarle. Per questo dice la mitzvah di lettura, in questo senso, di pronunciare e esprimere le parole. Mentre secondo lui, dalla seconda parasha in poi, da Ve'ayayim Shamoa, è sufficiente pensare le parole. Kavanah intende in questo senso qua, tenerle in mente, leggere con gli occhi o pensarli, senza dover esprimerle con la pronuncia vera e propria. Ma sempre con la comprendendole? Lui in questo caso no, lui in questo caso parla di Kavanah come una cosa che hai nel cuore, nel pensiero. Ok, quindi cambia di nuovo un po' il senso di Kavanah qui. È un terzo concetto di Kavanah. Potrebbe essere un terzo concetto, esattamente. Allora, noi adesso cercheremo in questa Gemara di analizzare questa Braita, perché siamo forse un po' confusi. Come dobbiamo fare questa mitzvah dello Shema? Non come dobbiamo farla. Certo, cerchiamo di farla nella migliore delle maniere, però qual è la necessità assoluta per sapere se rientriamo, in qualche caso estremo, se rientriamo nella mitzvah dello Shema o meno? Questo è il senso di quanto la Gemara vorrebbe fare. Definire questo capitolo, come dicevamo l'altra volta, definire la mitzvah base dello Shema, come va fatta. Allora qui abbiamo una fonte, una baraita, che dice la prima parte bisogna che si pronuncia con la kavanah, serve l'intenzione e la comprensione. Dalla seconda parte in poi non serve più, basta leggere. Invece questo è Rav Sutra. Rav Yoshia lo vede nel modo contrario, anche con un po' un altro senso di intenzione, cioè la prima parasha richiede, certo che va letto, ma richiede una lettura, una pronuncia espressa con le parole. La seconda invece è sufficiente solo la kavanah e non serve la lettura, quindi solo il pensiero delle parole. Com'è la situazione? Dobbiamo analizzare e capire. Allora la Gemara adesso ha finito di citare la Braita. Se volessimo punteggiare metteremmo qui la fine della citazione. E ricordo a tutti che suggerisco vivamente di scrivere traduzioni o parole chiave, eccetera, perché così rimane meglio nella nostra testa quello che stiamo studiando. Chi vuole, non è un obbligo, però sicuramente aiuta. La Gemara dice Maishna mikan ve'elach mitzvat kriya. Per quale motivo, esattamente, partiamo prima dalla prima opinione, quella di Rav Sutra. Rav Sutra ha detto la prima parte richiede la kavanah, la seconda parte è sufficiente la lettura, vero? Allora dice perché? Che cambia? Maishna mikan ve'elach mitzvat kriya, perché da qui in poi è differente dalla seconda parte. Qual è la motivazione? Su che cosa si basa? È una domanda retorica che la Gemara subito dà una spiegazione. Dichtiv, perché è scritto le daberbam, forse perché è scritto le daberbam, può essere questo il motivo, le daberbam, che vuol dire le daberbam? Parlare di esse, di queste parole che sono scritte in questo brano, si usa il termine le daber. E tutti sappiamo che ledaber vuol dire parlare, non pensare o essere intenzionati, ma parlare, esprimere con la bocca, pronunciare le parole. Allora forse per questo Rav Sutra dice che da qui in poi bisogna leggere, pronunciare, anche se non è necessaria secondo lui la kavanah, vero? Dice da qui in poi, dal secondo brano, bisogna keria, lettura. Perché? Forse perché è detto le da berban. La Gemara offre questa come ipotesi. Ma la Gemara dice, scusa, però anche nel primo brano è scritto una cosa simile. Haha nami, haha vuol dire in aramaico qui. Nami vuol dire anche. Anche qui, ha ketiv, è scritto, ketiv come katuv, è scritto vedibartaba. Scritto vedibartaba, ma anche nel primo, allora non può essere questo il motivo, perché se fosse per questo, i due brani sarebbero uguali, avrebbero la stessa halakha. Entrambi di lettura, in quanto è scritto ledaber, il senso di ledaber, il verbo ledaber, lo troviamo in entrambi i brani. Qui ledaberbam e qui vedibartabam, parlerai di esso. Allora la Gemara, qui bisogna fare molta attenzione, la Gemara, le prossime due parole, hachi ka amar, il senso letterale di queste due parole è è così che disse. Hachi vuol dire è così. Kamar disse. Il segno? Ah, scusate, nella Gemara originale è un acronimo. Hei Kuf. Hachi Kamar. Per sciogliere questo acronimo sono due parole. Hachi, così, Kamar disse. Cosa sta facendo la Gemara? La Gemara sta interpretando le parole del Tana, in questo caso Rav Sutra, il primo Tana della Baraita che abbiamo citato, ma sta dicendo, è come se lui avesse detto la seguente cosa. In altre parole, le parole che ci sono giunte dalla Baraita sono quelle che abbiamo citato, ma vanno capite nella seguente maniera. Ora vediamo cosa intende la Gemara fare, cioè intende inserire delle parole in bocca a Rav Sutra, che lui non ha detto esplicitamente, ma per la Gemara è come se l'avesse detto, perché è quasi scontato che questa è la sua intenzione. Vediamo cosa dice. Hachi kamar è il seguente quello che disse Rav Sutra. Ad kan, fino a qui, cioè fino alla conclusione del primo brano, mitzvat kavana ukria. Ci sono entrambe le cose da rispettare, sia l'intenzione, la comprensione, che la lettura. Non intendeva escludere la lettura, intendeva dire che nella prima non solo c'è la lettura, c'è anche la kavanah. Mentre mikan veilach, da qui in poi, cioè per il secondo brano, keria bello kavanah, è necessaria la lettura, ma non è più necessaria la kavanah. Questo è quanto diceva in realtà Rav Sutra secondo la Gemara. Perché se no non ha senso. Cosa potremmo dire? Perché in questo caso serve la pronuncia e qui non serve? L'ipotesi che abbiamo sollevato, forse perché qui dice le dabber bam, ma anche lì dice vedi barta bam. Giusto? Allora non è questa la motivazione. La Gemara viene e dice, hai capito male quello che ha detto Rav Sutra. Hachi kamar, è questo che intende dire. Cosa intende dire? Fino a qui c'è la mitzvah, ad kan mitzvah, kavana vekria, intenzione e lettura, ukria, e da qui in poi rimane solo la lettura. Ma non che qui c'è una e qui c'è l'altra. Nel primo brano ci sono entrambe le cose, entrambi gli obblighi, i criteri in realtà, per uscire l'obbligo della mitzvah. E nel secondo brano rimane solo un criterio, quello della lettura, e non è più, diciamo, essenziale che ci sia la kavanah. Ok? Ora, però, bisogna dare anche una motivazione per quanto abbiamo detto. Per quale motivo, appunto, ripetiamo la stessa domanda di prima, ma con il nuovo modo di vedere la baraita, giusto? Cosa abbiamo chiesto prima? Maishna, per quale motivo? Allora abbiamo detto, no, non c'è motivo, abbiamo capito male la baraita, abbiamo rispiegato la baraita, vero? Ora, ok, abbiamo rispiegato, torniamo alla stessa domanda, ma per quale motivo? Un maishna, su che cosa ci si basa per dire ad kan mitzvat kavana ukria? Che nel primo brano, sempre secondo Rav Sutra, c'è doppia mitzvah, sia kavanah che lettura. Mentre nel secondo non c'è, c'è solo la lettura. Allora dice perché nel primo brano ci sono due indicazioni, forse questo è il motivo. Quali sono le due indicazioni? Due criteri, due indicazioni. Quali sono le due indicazioni? Dichtiv al levavecha. Al levavecha che vuol dire? Sul vostro cuore. Vayu adevrim ele asher anochim etzavecha ayom al levavecha. Kavanah. Intenzione, comprensione. E poi c'è scritto anche vedibarta bam. Giusto? La riga prima, vedi Bartabam, nel Ve'ahavta è scritto vedi Bartabam, eccetera. Quindi vedi Bartabam vuol dire parlarne, allora sia la pronuncia che l'intenzione nella parola Alevavecha, allusa nella parola Alevavecha. Ah, ma se forse fosse così, allora non ha senso. Perché non ha senso? Ottimo, anche nel secondo brano c'è scritto Hatam Nami. Hatam vuol dire lì. Nami vuol dire? Anche. Anche lì. Lì dove? Nel secondo brano di cui stiamo parlando? Haketiv. Non è forse scritto Alevavchem? Asher Anochi Metzaveh Etchem Ayom. Alevavchem. Sul vostro cuore. E poi c'è scritto anche Leda Berbam. In entrambi i brani abbiamo entrambe le indicazioni. Allora la domanda è, mai shena? Cosa cambia uno dall'altro? Perché in un brano Rav Sutra dice la halakha richiede entrambi i criteri e nel secondo brano Rav Sutra dice richiede solamente uno dei criteri, quello della lettura della pronuncia. Se è per le indicazioni testuali che parlano dell'intenzione e della parola, queste due indicazioni le troviamo in entrambi i brani. Allora dobbiamo avere un altro motivo per differenziare tra un brano e l'altro. Giusto? Prima abbiamo avuto la scusa, abbiamo detto no, non hai capito cosa intendeva Rav Sutra. Intendeva dire che nel primo brano devi avere sia l'intenzione che la lettura e nel secondo basta la lettura. E ci siamo salvati, tra virgolette. Lo dice scusa, allora ma qual è il motivo? È sempre l'indicazione testuale qual è? Sempre le da ber bam e ale vavecha, allora abbiamo vedi bartabam e ale vavchem. Ci deve essere un'altra motivazione, in altre parole. Quindi la domanda è semplice. Se nel primo brano si richiedono due criteri, sia l'intenzione che la pronuncia, e nel secondo brano si richiede solamente un criterio, cioè solo la pronuncia, perché? Questa è la domanda. Semplicissimo. Per quale motivo? Questa operazione stiamo facendo per capire come poi sarà la halakha, qual è il vero criterio dello Shema. Allora la Gemara dice no. Ahu, quello, inteso quel verso lì del secondo brano, dove anche lì c'è scritto Alevavechem, la vostra intenzione, il vostro cuore, quello è inteso Ahu mi baiele, quello mi baiele letteralmente vuol dire gli serve, cioè utilizzo quella parola per imparare qualcos'altro, ok? Come derasha. Cosa lo utilizzo? Per imparare che cosa? La Gemara dice, gli serve li che derabbi Yitzhak, per quanto insegnò per l'insegnamento di Rabbi Yitzhak. Quindi stiamo per citare un altro maestro che cita questo versetto e ci spiega per quale motivo la Torah ci deve dire questa parola. E non sarà più una fonte per dire devi avere l'intenzione. E rimarrà solamente la fonte che dice che devi pronunciare riguardo il secondo brano. Vediamo. Lì che Rabbi Yitzhak ci serve per ciò che disse Rabbi Yitzhak. Cosa disse Rabbi Yitzhak? De Amar, Rabbi Yitzhak disse, Vesamtem et devarai elle, quando è detto, e metterete, imprimete questi miei precetti, queste mie parole, letteralmente, oppure queste mie cose, cioè queste mitzvot di cui si parla, imprimere, che vuol dire imprimere? Allora Rabbi Yitzchak dice, Cos'è il senso? Cosa è scritto nel versetto? Vesamtem et devarai elle al levavchem. Quindi stiamo parlando della citazione che parla del cuore nel secondo brano. E stiamo dicendo, non viene ad insegnarci che bisogna avere l'intenzione. No, nel secondo brano è sufficiente la lettura. Cosa invece ci insegna? Questo metterete queste parole alevavchem sul vostro cuore. Ci insegna quanto ha detto Rabbi Yitzchak. Cosa ha detto Rabbi Yitzchak? Tzricha shetehe sima keneged alev. Sima, il porre, vesamtem, e metterete queste mie parole alevavchem, in corrispondenza della posizione del cuore. È un riferimento al posizionamento dei tefilin del braccio, che vanno posti sul braccio, ma verso e in corrispondenza del cuore, alevavchem. Shetehe simma keneged alev, la simma, il mettere, porre, vesamtem, e porrete, imprimerete, deve essere messo dove? Stiamo parlando, secondo lui, da qui si impara il posizionamento dei tefilin del braccio. Quindi questo alevavchem è riferito alla mitzvah dei tefilin, non alla mitzvah di come leggere o non leggere lo Shema. Non è più un discorso del criterio necessario per la lettura di questo secondo brano dello Shema, se serve Kavanah o meno, non si parla di questo, si parla di altro. E invece per questo secondo brano rimane l'indicazione di Ledaber Bam. Il secondo brano è come se fosse un'istruzione per poter mettere i tefillin. Questo specifico verso del secondo brano stiamo parlando, non del secondo brano in generale. Quindi questo verso qui è un'istruzione per come mettere i tefillin, esattamente. Invece quando dice Ledaber Bam, è riferito di nuovo alla mitzvah dello Shema, della lettura di questo secondo brano, che va letto con la pronuncia scandita delle parole. Nel secondo brano non c'è la Kavanah perché non ci abbiamo la Drasha. Esatto, non è indicata la Kavanah come criterio per fare la mitzvah nel recitare il secondo brano, la seconda parte dello Shema, esattamente. Sì? In che senso avevo ragione? Quello che ha detto lui. Che ho detto a Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda ha detto che bisogna leggere tutto con il senso di Kavanah. Però il primo sì, con intenzione Kavanah, e il secondo e il terzo, se non riesci, se non lo fai con intenzione Kavanah, non c'è bisogno di ripetere lo Shema. E però va letto. Però va letto. Va comunque letto. Va comunque letto. Ok. Quindi Rabbi Yehuda diceva questo, che la Kavanah è richiesta solo nel primo brano. Bene. Sì? Io penso che il primo brano è indirizzato alla persona di pregio, al tuo cuore. Così. Il secondo brano è la trasmissione di questo primo brano alla comunità, perché le davvero bam, le citerà, vedete la voglia, tu devi. Il primo è singolare, il secondo è plurale. È come se tu devi insegnare anche tu agli altri a venire verso questo primo brano. Vero, è tutto plurale. Bene, giusto, quello che dici non è sbagliato, però è un contesto diverso. L'insegnamento per uscire dalla persona e portare verso la comunità. Sì. Questa cosa qua. Questo non è negativo più che non è sbagliato. Tuttavia non è il nostro contesto, nel senso quello non contraddice quello che stiamo dicendo qui. Stiamo parlando di due strati diversi del significato dello Shema, due prospettive diverse. Qui stiamo cercando di capire qual è il criterio per fare la mitzvah, a prescindere del significato, se sia per la collettività o per la singola persona, eccetera. Ok? Allora abbiamo chiarito fino a qui cosa abbiamo fatto. Abbiamo chiarito il senso della prima opinione citata in questa altra braita, Tania Idach, quella di Rav Zutra. Ottimo. Ma ancora non abbiamo chiarito la seconda, la posizione di Rabbi Yoshia. Allora la Gemara non se ne è dimenticata di Rabbi Yoshia e dice Amar Mar, lei ha detto prima nella citazione Rabbi Yoshia Omer, Rabbi Yoshia disse Ad kan mitzvat keria. Fino a qui. Ad kan mitzvat keria. Fino a qui è la mitzvah della lettura. Il primo brano. Mikan veilach. Da questo punto in poi, disse Rabbi Yoshia, rimane solamente mitzvat kavana. Non è necessaria la lettura dal secondo brano in poi. Giusto? Questo disse Rabbi Yoshia. Bene? Pagina 11 sulle fotocopie. Mikan veilach mitzvat kavana. Allora analizziamo quanto dice Rabbi Yoshia. Per quale motivo lui discute con quanto abbiamo spiegato è stata l'opinione del Rav Sutra? Allora Rabbi Yoshia, la Gemara chiede. Maishna, stessa formula di domanda. Che cambia, letteralmente? Per quale motivo Mikan veilach mitzvat kavana? Quale può essere un'ipotesi che da qui in poi c'è solo, cioè dal secondo brano c'è solamente l'obbligo della intenzione, non della lettura? Forse perché Mishum dichtiv allevavchem, è scritto che si richiede la kavana, il vostro cuore. Scusa, però, se così fosse, haha, vi ricordate il senso delle parole hachanami? Qui anche qui, haktiv, è scritto allevavecha. Stesso discorso inverso di quanto abbiamo fatto prima per Rav Sutra, lo facciamo per Rabbi Yoshia. Scusa, in entrambi i brani c'è scritto un'indicazione del cuore che indica la kavana. Allora la Gemara di nuovo con la stessa formula mette nella bocca di Rabbi Yoshia le parole che lui veramente intendeva esprimere e dice questa formula che abbiamo visto prima, hachi ka amar, è così che in realtà lui disse. Cosa disse? Ad kan, fino a questo punto, mitzvat keria ve kavana. Non che non serve la kavana nel primo brano. Intendeva dire c'è la mitzvah della lettura, e anche scontato che ci sia anche la mitzvah della kavana per ciò che riguarda il primo brano. Però da qui in poi, Mikan veilach, da questo punto in poi, quindi dal secondo brano, kavana bellocheria, è richiesta solamente la kavana e non è richiesta la lettura. Molto bene, molto bene, molto carino. Allora la domanda è, scusa, perché? Va bene, abbiamo chiarito che sì, in entrambi i casi c'è scritto allevavchem o allevavecha, e allora in tutti e due i casi c'è la kavana, ma solo nella seconda parte c'è la... Sì, non c'è più la mitzvah della kavana. Scusate, non c'è più la mitzvah della lettura. Giusto? La kavana c'è in entrambe, allevavchem, allevavecha, e la lettura non c'è più, perché? Maishna, chiede la Gemara. Maishna, e per quale motivo? Cosa cambia che in uno c'è la lettura, c'è solo la lettura, e l'altro non c'è? Maishna ad kan mitzvat kriya ve kavana. Per quale motivo con la fine del primo brano conclude la mitzvah dove si richiede entrambe le cose? Sia lettura che intenzione? Forse perché è scritto dichtiv allevavecha vedi bartabam, forse perché il primo brano richiede tutti e due entrambi i criteri, perché ci sono entrambe le indicazioni, sia allevavecha, cioè la kavana, che vedi bartabam, cioè la pronuncia delle parole, la lettura. Ma se così fosse, hatam nami, traduzione, anche lì hatam lì, cioè nel secondo brano che tiv è aktiv, è scritto allevavchem, quindi si allude alla kavana, e anche le da berba, e si allude alla lettura. Stesso discorso di prima. Risponde la Gemara e dice, quando c'è nel secondo brano è scritto allevavchem, siamo d'accordo? Si parla della kavana, e per questo Rabbi Yoshia ha detto che anche nel secondo brano è necessaria la kavana. C'è questo criterio. Ma la lettura no, perché? Ah, come fai a dire no, perché è scritto le daber bam, parlarne? La Gemara dice sì, parlarne, ma in un altro contesto. Non si sta parlando della mitzvah dello Shema quando diciamo le daberbam. Di cosa si sta parlando? La Gemara spiega. Ahu. Quello lì, cioè quel riferimento alla parola, le daberbam, quel riferimento lì, quel verso, bedivre Torah ketiv. Ketiv vuol dire è scritto, come katuv, come dicevo prima. È scritto riguardo alle divrei Torah, alle parole della Torah, cioè allo studio della Torah in generale, non la lettura della la mitzvah della lettura dello Shema. Le daber bam è l'indicazione che bisogna parlare di Torah, insegnare e imparare Torah. Ve'hachi ka'amar, di nuovo la formula hachi ka'amar, così disse, ma in questo caso non stiamo mettendo in bocca a un Rav come Rav Zutta, Rabbi Oshia, stiamo mettendo in bocca alla Torah. Hachi ka'amar rachamana, così disse il misericordioso, è un modo in aramaico di riferirsi ad Akadosh Baruch Hu, cioè alla Torah. Così disse la Torah, agmiru benaichu Torah, insegnate ai vostri figli la Torah, questa frase è tutta in aramaico, agmiru, insegnate, benaichu, ai vostri figli, Torah, ki heichi deligresu behu, affinché parlano di esse e siano esperti nel parlare di esse. Diligri su è un parlare che viene facile, che è naturale. Quindi le daber bam è sì una mitzvah, ma è una mitzvah distinta da quella della lettura dello Shema. Secondo Rabbi Oshia non si può capire dalle daber bam che bisogna pronunciare le parole del secondo brano. Non stiamo parlando di pronuncia. Stiamo parlando delle parole della Torah che vanno imparate. Velimadetem, qual è il contesto di questo versetto? Velimadetem otam et benechem, e li insegnerete ai vostri figli le daber bam, in modo tale che loro possano parlarne. Che diceva William prima, più o meno. Lui parlava delle mitzvot. Comunque, la mitzvah di insegnare la Torah ai nostri figli. Fino a che punto? Le daber bam, che loro ne possono parlare da soli. Chiaro? Siamo fino a qui? Sì. Sì, dimmi. Ma sta cosa chi la dice? Cioè, la Gemara. E che... I maestri della Gemara, gli Amoraim, i maestri successivi ai Tanaim. D'accordo. Qui non è citato un maestro specifico. Spesso abbiamo la Gemara stessa, cioè quello che è il consenso, diciamo, Che comunque messo insieme dai redattori della Gemara, okay. Ravina e Ravashi. Quindi c'ha valenza. Certo che c'ha valenza, perché questo è il modo che noi applichiamo il significato a quelle Braitot che prima, un momento fa, non erano molto comprensibili a noi. Ok, quindi è come una somma. Sta spiegando la Braita, okay. e arriva a questa conclusione. Okay. Sì. No, pensavo non avesse valenza. No, certo che ha valenza. Basterebbe solo detto, solo ma ha valenza e dà valenza a quanto è stato detto nella Baraita. Perché Rabbi Oshia ha detto non c'è la mitzvah della Kavanah nel secondo brano, solo la lettura. Su cosa si basa? Anche lì c'è scritto le daber bam. Scusa, al contrario, non c'è la lettura, c'è solo la Kavanah. Ah, scusa, c'è scritto le daber bam. Cioè, no, le daber bam è riferito a un'altra cosa. A cosa è riferito? Parlare ai nostri figli in modo che loro anche siano bravi a parlare. Che loro ne parlino, esattamente. Che loro, le daber bam è riferito... Velimadetem otam è riferito al padre. Le daber bam è riferito al figlio. Io devo insegnare in modo tale che il figlio ne possa poi parlare e capire da solo. La prima parte della baraita comunque l'abbiamo aggiustata in pieno, perché sono tutti e due d'accordo su Akeria sulla Kavanah, cioè sulla lettura e sulle... Del primo brano dello Shema. Mentre bravissimo. Nella seconda invece ci sono le opinioni diverse delle Rabbanim. Ottimo. Avete capito? Abbiamo detto praticamente, come dice David, che tra Rabbi Oshia e Rav Zutra non c'è discussione sulla prima parte dello Shema. Perché abbiamo capito che entrambi richiedono entrambe le richieste, cioè entrambi Kavanah i criteri, sia Kavanah che lettura. La discussione in realtà si svolge riguardo al secondo brano dello Shema, che secondo Rabbi Oshia non serve la lettura, e mentre invece secondo Rav Zutra serve proprio la lettura e non è necessaria la Kavanah. Vero? Ok. Ora facciamo un ultimo pezzo. e poi concludiamo. Qui adesso citeremo una nuova Braita in cui si parla del primo versetto dello Shema e vediamo come si rapporta a quello di, a che abbiamo parlato prima. Stiamo parlando sempre del criterio di Kavanah e dove è necessario il criterio di Kavanah per uscire l'obbligo della mitzvah. Quindi Tanu Rabbanan, ricordatevi che Tanu Rabbanan è un altro codice per dire abbiamo studiato in una baraita, i maestri insegnarono Tanu Rabbanan. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Questo primo versetto dello Shema dice la baraita Ad Kan Tzericha Kavanat Halev. Solo fino alla fine di questo primo versetto è necessario il criterio della Kavanah. Queste sono le parole di Rabbi Meir, di Vre Rabbi Meir. Questa è l'opinione di Rabbi Meir. Che Kavanah si intende qua, Rab? La prima che ricordiamo, cioè la Kavanah dell'azione dell'uscire, sì, di sicuramente questo, forse anche la seconda, anche la comprensione. Oppure anche la comprensione, tutte e due. Probabilmente tutte e due, mi viene da dire, però devo approfondire. Ora la novità di questa cosa è che è diverso da quello che abbiamo visto. Abbiamo prima detto che è necessaria la Kavanah almeno per il primo brano, non solamente per il primo versetto. Sia secondo Rabbi Yehuda, che secondo Rav Zutra, che secondo Rabbi Yoshia, vero? Sì. Tutti quelli che abbiamo visto fino a questo momento richiedono la Kavanah almeno per il primo brano, fino a Bishei Arecha. Anche Rabbi Akiva diceva questo. Solo Rabbi Eliezer parlava di un criterio meno rigoroso, ma anche lui arrivava a Ve'ayua Devarim Ha'ele, non solo fino al primo versetto dello Shema. Invece Rabbi Meir dice no, solo il primo versetto. La novità è la seguente cosa che la Gemara dirà, e questa volta cita per nome un maestro della Gemara. Amar Rava dice... Come è la halakha rispetto a tutte le opinioni che abbiamo riportato? Halakha che Rabbi Meir. La halakha segue l'opinione di Rabbi Meir. E la halakha è così codificata nello Shulchan Aruch, nel Rambam, che come ha spiegato Rava, visto che Rava è successivo a tutte le opinioni e ha riportato l'alakha così come è stata deciso al suo momento, è stata decisa, allora quella rimane l'alakha. E l'alakha quindi rimane come diceva Rabbi Meir, che la Kavanah come cosa assoluta è richiesta solamente fino alla conclusione della prima riga, il primo versetto dello Shema. Alakha che batrai, bravissimo. Un altro concetto importante da ricordare: Alakha segue, se noi abbiamo diverse opinioni e vediamo un'opinione in una maniera in una generazione, un'altra in una prossima generazione, visto che la prossima prende in considerazione anche la prima, la precedente o le precedenti, l'Alakha segue l'ultima, ok? Che è già un'elaborazione delle precedenti. Esattamente. Ora la Gemara dice Tanya, e tutti sanno ormai cosa vuol dire Tanya, abbiamo studiato in una braita, Sumachos Omer, Sumachos è il nome di un Tana, ok? Avete mai sentito questo nome? Ok, Sumachos dice, Kol ha-marich be'echad, marichin lo yamavu shnotav, chiunque prolunga la pronuncia del termine Echad, per poter bene approfondire il senso, la Kavanah, allora gli si prolungano, gli viene prolungata la vita. Marichin lo yamavu shnotav. Gli viene prolungata la sua vita, i suoi giorni e i suoi anni. Amar Ravacha bar Yaakov, disse Ravacha, figlio di Yaakov, dove, facendo una nota su queste parole di Sumechos, come si allunga la parola di Echad? Ubilvace ya'arich bad daled, Ubadaled, cioè che questa, questo allungamento della parola Echad riguarda la ultima parte, la lettera Dalet. Pronunciare bene la lettera Dalet. Amaravashi, e Ravashi aggiunge, uno dei maestri che concluse e fu uno dei redattori del Talmud, Ravashi, ubilvad ce lo yachtof bachet. Come si traduce lo yachtof? Che non produci troppo velocemente. Yachtof vuol dire to grab, no? Acchiappare. Acchiappare, non acchiappare, non pronunciare troppo velocemente la chet, sbagliando appunto la punteggiatura esatta della parola. Quindi anche la chet va detta in maniera esatta, precisa. E si racconta, concludiamo, Rabbi Yirmia Havayatev Kamed Rabbi Chia Baraba. Rabbi Yirmia era seduto davanti a Rabbi Chia Baraba durante la tefila. Chazie lo vide, a Rabbi Chia Baraba, dava marich tuva, che stava prolungando molto. Tuva vuol dire tanto o molto in aramaico. Amar lei, no, al contrario, Rabbi Chia Baraba vide che Rabbi Yirmia stava allungando molto la lettura, il prolungamento della lettura del versetto dello Shema. Amar lei gli disse che vande amnichtei, dal momento, una volta che tu hai riconosciuto il suo regno, amnichtei, melech, che l'hai reso re, diciamo, l'hai incoronato, l'hai riconosciuto il suo regno, le mala u le mata, in alto e in basso, ule arba ruchot hashamayim, e nei quattro punti cardinali, allora nelle quattro direzioni del cielo, tu la tzerichat, non è necessario ulteriormente prolungare. Tu vuol dire di più, ancora, ulteriormente. La tzrichat non serve, lo tzarich in ebraico. Non serve allungare in maniera esagerata. Basta che hai il tempo, poco tempo necessario, per pensare a questo concetto, che HaKadosh Baruch Hu Hashem Elokeinu Hashem Echad, che il suo regno è in tutti i sei punti, alto, basso e quattro direzioni, allora è sufficiente non esagerare il prolungamento della parola. Ok, oggi siamo fino a qui. Tu la tzrichat. Perché il Talmud dice tu la tzrichat, non serve più. Allora concludiamo.